E mentre in America si lavora al film Orgoglio e pregiudizio e zombie, tratto dall'omonimo romanzo di Seth Graham Smith, caso letterario del 2009 che rivisita in chiave zombie il capolavoro di Jane Austen, reduce da successo negli Stati Uniti è arrivata anche in Italia, presto anzi andrà in onda la seconda stagione The Walking Dead, serie TV sugli zombie tratta dall'omonima celebre graphic novel. Per i sociologi americani riflette il sentimento di apocalisse imminente subentrato nella coscienza collettiva dopo l'11 settembre. Sai di quei morti, vero? Camminano. Io sono soltanto un uomo in cerca della sua famiglia. E numerosissimi sono i social network degli zombie. Abbiamo lostzombies.com oppure zombiefriends.com, uno in particolare dedicato al dating, gli appuntamenti online, zombiepassions.com, dating tra gli zombie che sì, sembrano morti, ma non dimentichiamolo che invece sono vivi. Da qualche anno si sono moltiplicate nel mondo anche le zombie walks, le camminate dei non morti. Il 22 maggio scorso è stata la volta di Milano, il 18 giugno Verona. Sono raduni di persone abbigliate, truccate da cadaveri claudicanti che invadono strade e luoghi pubblici, una sorta di cosplaying da zombie, una sorta anche di rito catartico collettivo e potremmo anche associarlo a una moderna danza macabra medievale che ammonisce gli impreparati e inorriditi passanti con il messaggio «diventerete morti anche voi». Tutte le foto sono su zombiekb.com.